Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Monica Repetto, regista del documentario 1974-1979, Le nostre ferite, in onda su Rai 3, domenica 9 maggio 2021. Monica, ben trovata. Ben trovata, eccoci. Che cos'è questo lavoro? Innanzitutto è un lavoro a cui abbiamo faticato per vari anni. Racconto storie di gente comune sopravvissuta alla cosiddetta normalità degli anni di piombo, gente comune che è sopravvissuta a violenza politica e al terrorismo negli anni 70. Sono appunto persone della classe media, cioè la casalinga femminista, l'aspirante manager, uno studente del liceo, uno studente dell'università, un poliziotto. Quello che mi interessava era cercare di superare degli stereotipi, affrontare una memoria che è una memoria viva, che è una memoria molto dolorosa, che è una memoria contraddittoria e che non è una generica memoria di ricorrenze. Guarda caso il 9 maggio è un anniversario, il 9 maggio è stata scelta come data per istituire una ricorrenza, no, sulle vittime di terrorismo e di stragi in Italia. E a me fa piacere che il documentario si possa vedere in questa data, proprio perché paradossalmente credo che a volte nella ricorrenza, no, ci si adagi, ci si appoggi per in fondo non affrontare realmente il proprio passato. Come mai questo lasso di tempo su cui ti sei focalizzata? 74-79, perché le storie che mi interessava raccontare, dei protagonisti che mi interessavano raccontare, erano proprio, guarda caso, storie che sono avvenute nel 74 e nel 79. Ma questi due anni sono anche due anni, se vuoi, in una cronologia di un decennio, anni abbastanza simbolici. Parto dalla fine, 79. Il 79 è prima del 1980, l'80 ha segnato simbolicamente la fine di una rivoluzione, la fine di una rivoluzione collettiva, cioè di un momento in cui, e lo dicono le due femministe del racconto, no? Nunni, la plurinovantenne e un'altra ex di Radio Donna, la più giovane dice: ma perché dovevate rimanere voi ancora a lottare, a farvi trucidare, voi del collettivo femministe? Nunni, la femminista ultra novantenne, risponde alla sua compagna dicendole: ma noi dovevamo rimanere, perché poi vedi come ci siamo ridotte. E l'altra dice: ma volevi rimanere solo tu del collettivo femminista a farti trucidare? Quando era finito tutto, il 1980, era finita la rivoluzione, si è chiuso, no, un capitolo della storia. Si è chiuso un capitolo della storia? Non lo so, noi abbiamo tante ferite ancora aperte che hanno origine in quegli anni. Abbiamo tante conquiste aperte e su cui ancora lottare, che sono nate in quegli anni. Parlo, cioè, di conquiste anche per le donne, cioè il divorzio, la legge sull'interruzione della gravidanza, chiusura dei manicomi, il voto ai diciottenni, la riforma psichiatrica, la riforma sanitaria per cui la salute era gratuita per tutti. Cioè, tutte cose che noi, la riforma delle carceri, che noi oggi un po' diamo per scontate, ma mica tanto. Quindi questa memoria non è una memoria che sta nel passato chiusa in un cassetto, riguarda me che avevo 12 anni all'epoca, riguarda mia figlia che ha 12 anni oggi. Le storie con quali criteri le hai scelte? Da un lato, come puoi immaginare, trattandosi di persone comuni, è stato proprio difficile avere accesso, conoscere queste storie. Quindi c'è stato tutto un lavoro di documentazione su archivi privati, su archivi che raccoglievano memorie di studenti dei collettivi studenteschi, memorie di studenti del liceo, memorie di studenti dei collettivi universitari, lavoro proprio su storici che hanno fatto raccolta di testimonianze orali. E quindi da lì siamo andati alla ricerca delle persone. Poi cercavo anche dei temi, per esempio mi interessava molto il punto di vista di chi era studente 18enne, 17enne all'epoca, di chi aveva 20 anni all'epoca e quindi andava all'università. Mi interessava un punto di vista femminile, femminista, ma non molto indagato, come quello del collettivo delle casalinghe. Quindi donne molto più anziane, no, rispetto alle studentesse che si avvicinavano al movimento negli anni 70. Mi incuriosiva la voce del poliziotto del Sud che era venuto a Roma a cercare lavoro, mi incuriosiva la voce del bancario, no, di coloro che si stavano apprestando, no, che studiavano per diventare i manager del futuro. Mi interessavano queste voci un po' eccentriche. Che mosaico secondo te ne è venuto fuori? Non spetta a me dirlo, ma io trovo che sia un modo per affrontare una memoria veramente conflittuale, che non è stata risolta. È stato molto difficile affrontare quegli anni. Io ho un mio punto di vista. Per me non è che il sangue è tutto uguale, le motivazioni che hanno portato. Se mi si chiede perché una generazione ha imbracciato il fucile, no? Ha deciso di armarsi, perché uno Stato, dei poteri più o meno occulti, hanno deciso di opporsi o di generare un clima dove sono morte centinaia di persone, io una risposta a questo non ce l'ho, non spetta neanche a me, però non vuol dire non doversi interrogare e non dover andare a cercare. Il lavoro degli storici è ancora aperto, è aperto e c'è tantissimo da fare, tantissimo. Io le cose più interessanti le ho lette da giovani storiche, donne, giovani storici di generazioni successive al 68, successive al 77. E questo non è casuale, secondo me. Che tipo di fruizione sarà oltre alla programmazione su Rai 3? Il film è andato in vari festival, sia in Italia che all'estero, al Festival di Torino come anteprima, è andato a Los Angeles, a Toronto, in Spagna. Io sarei molto contenta, ma lo faremo sicuramente appena ci sarà la possibilità, finalmente i cinema hanno riaperto, ma anche andare nelle scuole, cioè ci sarà sicuramente una diffusione nella sezione Racconti Italiani della FICE dedicata ai film d'essai, nelle sale d'essai italiane. Il documentario è tra i 10 documentari selezionati per Racconti Italiani, quindi speriamo di riuscire a portarlo ad un pubblico in presenza, ecco, questa è la cosa che veramente mi preme di più. 1974-1979, le nostre ferite, su Rai 3, domenica 9 maggio 2021, un saluto e un ringraziamento alla regista Monica Repetto. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ma grazie a voi, grazie, ciao. Con Alessandro Grande, regista del film Regina On Demand da venerdì 30 aprile 2021. Ben trovato. Buongiorno, grazie, grazie per l'invito. Come lo racconteresti brevemente a chi ci ascolta? Regina è un film drammatico, giocato sul terreno del senso di colpa, sul conflitto generazionale e sul rapporto padre-figlia. Un giovane padre e una ragazza di 15 anni devono affrontare forse l'evento più delicato della loro vita. Un giorno, a causa di un incidente, metteranno in discussione il loro rapporto e poi succederà quello che succederà. Come è nato il progetto? Dalla volontà, dal bisogno di raccontare comunque una storia intima, una storia che affrontasse comunque, come dicevo prima, il conflitto generazionale, il bisogno oggi di prendersi le proprie responsabilità, quindi crescere non solo da un punto di vista giovanile, ma crescere anche da un punto di vista paterno, quindi è un racconto di formazione sia per il padre sia per la figlia, quindi nasce proprio da un bisogno di portare una tematica così attuale allo spettatore. Per quanto riguarda la scelta dei volti, come ti sei mosso? Ho fatto tantissimi provini per il ruolo di Regina, che poi è la protagonista femminile assoluta del film, e ho visionato più di 550 ragazze, quindi parliamo veramente di un numero esorbitante, perché il ruolo era molto delicato, doveva avere tante sfaccettature caratteriali e in più doveva saper cantare e suonare, cosa non da poco. Per quanto riguarda invece il ruolo maschile, ad interpretare Regina è Ginevra Francesconi, ad interpretare Luigi, suo padre, è Francesco Montanari, e con Francesco invece non c'è stato bisogno di andare a visionare chissà quanti papà, perché mi interessava giocare con Francesco e quindi ho fissi un ruolo diverso dai classici ruoli che finora ha interpretato, perché in questo film è un padre dolce, amorevole, che però ha avuto un passato un po' turbolento, quindi ho voluto giocare con lui. Il passaggio dal cortometraggio al lungo di finzione? Penso sia stato più naturale possibile, perché ho fatto una lunga gavetta nel cortometraggio, lunga più o meno 10 anni, quindi diciamo alla fine si ha proprio l'esigenza di andare a raccontare una storia di più ampio respiro. Ovviamente sono due modi di raccontare una storia attraverso le immagini diverso, perché se nei corti bisogna riuscire a raccontare tutto attraverso il dono della sintesi in pochi minuti, nel lungo invece la vera difficoltà è quella di far mantenere l'attenzione per tutta la durata del film. Quindi sono stato attento da un lato, però dall'altro lato mi sono lasciato molto guidare dall'istinto, che secondo me deve essere sempre alla base di qualsiasi lavoro artistico. In fase di scrittura ti sei basato sull'intimità o anche sei stato influenzato dalla cronaca? Ho cercato molto storie analoghe, devo dire che addirittura quando ero in fase di preparazione, quindi la scrittura già fatta, è successa una cosa simile, per cui non è che ho preso molto spunto da storie vere, ho preso spunto invece da un saggio di Massimo Recalcati che si chiama Il complesso di Telemaco, nel quale l'autore affronta il problema proprio del conflitto generazionale, quindi di un padre che è incapace di prendersi le proprie responsabilità e dei figli che attendono questa guida per poter crescere. Quindi da questo mi sono reso conto che la tematica era molto attuale. Questo è l'evento specifico nel film, perché succede un evento specifico che compromette le due vite. Per quanto riguarda invece un discorso generale, complesso, sul conflitto generazionale, lì allora sì, mi sono ispirato alla vita, perché oggi più che mai le nuove generazioni hanno bisogno di un faro. Che tipo di distribuzione avete pensato? Con la situazione che viviamo oggi in Italia, la sala restava comunque una soluzione molto precaria, per cui abbiamo deciso di offrire a tutti il film in streaming on demand sulle principali piattaforme. Il film è dal 30 aprile su Sky Prima Fila e sulle principali piattaforme streaming, e prossimamente però ci sarà anche una finestra dedicata alla sala cinematografica. Il film Regina on demand da venerdì 30 aprile 2021, saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Grande. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie e viva il lupo! Con Massimiliano Pacifico, regista del film Gelsomina Verde, sulla piattaforma 1985 dal 29 aprile 2021. Massimiliano, ben trovato. Buonasera, grazie per questa opportunità. Cosa racconta questo film? Definirlo docufilm è anche riduttivo in un certo senso, perché è un film che abbiamo costruito lavorando su diversi livelli di narrazione e cinematografici, perché abbiamo raccontato la storia di una vittima innocente di camorra, Gelsomina Verde, una storia atroce, anche forse una delle più note nell'ambito della cronaca nera legata alla faida di Scampia, perché una ragazza che 17 anni fa fu uccisa nella

sottoponendolo a un luogo come una sala audizione. In quel caso erano degli attori che andavano a fare il provino per un attore e recitavano dei monologhi. E quindi praticamente da quel cortometraggio poi il progetto è andato avanti. Gianluca ha trovato le risorse, come lui solo sa fare, in maniera politica molto distanti dall'iter commerciale solito per produrre un film, per cui questo è un film che è sostenuto dalla Rai in collaborazione con altri due partner che sono l'Amafilm e Bartley Bay, e abbiamo tirato sul budget per fare questo piccolo film girato in 2 settimane in una vera residenza teatrale nelle Marche. Il film poi ha avuto una lunga gestazione anche successivamente alla sua realizzazione, perché è stato presentato al Festival di Pesaro nel 2019, però chiaramente poi colpiti dalla pandemia volevamo uscire a novembre in onore della, purtroppo, della ricorrenza della morte di Gelso Minaverde, non è stato possibile, e poi adesso appunto siamo usciti su questa piattaforma, che è una piattaforma più piccola forse, ma molto autoriale, molto bella, perché messa su da alcuni dei cinema più importanti autoriali in Italia, come per esempio il Beltrade a Milano, il super modernissimo a Perugia e tanti altri, e che hanno messo su questa piattaforma per accompagnare i film che loro proiettano nelle loro sale. E quindi 1895 in onore anche della prima proiezione pubblica di Lumière in Francia. Gelsomina Verde sulla piattaforma 1895 da giovedì 29 aprile 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Massimiliano Pacifico. Un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille. Con Federico Micali, co-regista del social film Firenze Sottovetro, al cinema dal 6 maggio 2021. Federico, ben trovato. Ciao, ben trovato a tutti. Ci parli di questo progetto? Finalmente esce al cinema, abbiamo rimandato varie volte l'uscita per ingenuità, direi. Noi pensavamo di poter uscire già lo scorso novembre, poi a inizio gennaio, e in realtà appunto o i cinema erano chiusi o comunque il periodo non era opportuno per fare un'uscita, quindi il fatto che finalmente i cinema siano aperti e che noi possiamo uscire al cinema è sicuramente una bella notizia, perché questo era un film che aveva bisogno di incontrare il pubblico in sala, perché è un social film, nel senso che raccoglie immagini mandate da tutta la città durante il 2020 per raccontare un periodo che indubbiamente è stato fuori dall'ordinario per qualsiasi luogo nel mondo, in particolar modo per una città d'arte come Firenze, che si è completamente vista svuotata nei luoghi anche più caotici, più pieni, anche mettendo a nudo tutta una serie di difficoltà, tipo appunto lo svuotamento del centro, no? La gentrification, quest'idea appunto che il centro di Firenze fosse svuotato agli abitanti, è stato chiaro mai quanto in questa occasione, perché effettivamente il centro era in qualche modo assente alla città. Ecco, quindi che appunto da questa cosa è nata Firenze Sottovetro, o meglio, è nato da un'idea che abbiamo condiviso io e l'altro regista, che è Pablo Benedetti, l'idea di volere in qualche modo contribuire nel nostro ruolo, che in questo caso è un ruolo di regista, di autore, nel fare qualche cosa in un periodo in cui c'era molta solidarietà e molta azione, no? Per cui noi ci siamo interrogati su come poterlo fare, come poter documentare nel modo migliore questo periodo, e l'idea che ci è venuta appunto era questa: utilizzare il social film, che è un modo di racconto ampiamente sviluppato, ma che in questo caso aveva secondo me una ragione di essere ben precisa. Sottovetro, ma comunque vita c'era. Beh sì, era quello, cioè, c'era vita, ma era una vita chiusa nei microcosmi dove ciascuno di noi era relegato, specialmente all'inizio del primo lockdown, no? Diciamo, erano tutte delle palle di vetro comunicanti tra loro attraverso i social, attraverso i balconi, attraverso quelle rare uscite che uno riusciva a fare per andare a lavorare, quelli che ancora potevano andare a lavorare, o in queste file interminabili davanti ai negozi, cosa che già a distanza di un anno, nonostante che il periodo di pandemia non sia esaurito, ci sembrano effettivamente fantascienza, pur avendole vissute, no? Ecco, però in realtà appunto proprio questa comunicazione a distanza, questo uso spasmodico dei device per parlare, per comunicare, per fare le riunioni, per fare didattica a distanza, era anche probabilmente un modo interessante per fare sì che tutta la città riuscisse a mandarci dei documenti all'interno delle quali noi potessimo poi navigare per descrivere un arco drammaturgico. Ovviamente questo lo potevamo fare soltanto se fossero arrivati molti materiali, per cui l'obiettivo, specialmente all'inizio, è stato quello di lavorare in maniera diversa a quello che è una normale produzione, cioè siamo entrati subito nella fase operativa e cercando di mettere questa zappa in acqua per capire se poteva avere effettivamente un feedback, e per fortuna il feedback c'è stato da varie parti, anche istituzionali, per cui il progetto è andato avanti, abbiamo ricevuto oltre 1600 materiali, ed è sicuro sono un numero veramente alto se devi lavorarci per riuscire a far sì che questi materiali diventi una linea narrativa molto molto intrecciata. E per far questo siamo venuti anche a Roma, perché il nostro montatore è Gigi Mearelli, che magari è in ascolto e quindi saluto, che è un montatore molto molto bravo con cui io avevo già lavorato, e quindi abbiamo fatto con lui questo montaggio. In realtà non sempre in presenza, ma anche noi abbiamo lavorato per un lungo periodo su Zoom, che anche quello è un tipo di montaggio abbastanza surreale, però devo dire che in qualche modo, con più monitor davanti, con questi hard disk alla mano, siamo riusciti anche a fare il montaggio a distanza. E poi ovviamente per la fase di post-produzione siamo venuti a Roma e quindi abbiamo chiuso lì. Ecco, proprio in fase di montaggio, che taglio avete voluto dare? Ci è stato poi indicato dal tipo di materiale che è arrivato. Noi abbiamo seguito un taglio cronologico, perché era quello probabilmente più corretto per descrivere questo periodo. L'idea in generale che ci avevamo era di fare un qualche cosa che potessimo rivederci tutti tra 10-20 anni, cioè un qualche cosa, una sorta di capsula del tempo, no? Quindi descrive l'arco del 2020 dall'inizio, quando ancora la vita era normale, ma si iniziava ad avere delle notizie su quello che arrivava dalla Cina, fino a poi a essere completamente travolti, e poi i vari stati, no? Fase 1, fase 2, fase 3, estate libera tutti e poi di nuovo. Però ecco, questo da una parte. Dall'altra, gli stessi materiali ci raccontavano da una parte una fase drammatica, ovvero racconti angoscianti di chi si è trovato nel mezzo al virus, di chi si è trovato la vita sconvolta, problemi anche da tutto il mondo del lavoro e della scuola, quindi tutta una serie di aspetti estremamente negativi e angoscianti, ma ugualmente contrappesati da quello che è un po' lo spirito di Firenze, no? Di voler cercare di trovare un lato ironico nelle cose sempre e comunque, un lato sarcastico, quindi trovare modo di riderci sopra, come è successo anche con l'alluvione del 66, no? Trovare un modo di riderci sopra per andare avanti e un po' per esorcizzare questa cosa. E in tanti video questa cosa è arrivata, e quindi alla fine non ti posso dire che Firenze Otto Vetro è un lavoro deprimente, siamo stati attenti a cercare di bilanciare le cose per non far sì che invece diventasse troppo ironico, ecco. Questo è un lavoro a quattro mani, perché l'abbiamo fatto io insieme a Pablo Benedetti, ma è stato molto importante il lavoro, oltre di Gigi Mearelli, che ho già citato, anche di Emanuele Frusi alle musiche, e di Andrea Mugnaini, che poi ha curato la produzione del progetto. Ci sono spazi internet dedicati a questo lavoro? Il film è molto presente sui social, quindi sia su Facebook che su Instagram. Facciamo la prima uscita in sala a Firenze, in tenitura una settimana al Cinema La Compagnia, ma l'obiettivo poi è portarlo fuori, perché pensiamo di aver fatto un lavoro su una città, ma non a uso e consumo di questa città, non è un lavoro locale, per cui speriamo di girare molto, ma altrimenti comunque sarà sicuramente poi presente con la distribuzione nazionale in piattaforma, cosa che abbiamo voluto fare il più tardi possibile, proprio per dare la possibilità invece di avere un'uscita cinematografica, ecco, che è importante. E non ultimo, questo ci tengo a dirlo, perché noi che lavoriamo in ambito dello spettacolo siamo perfettamente consci della botta che sia stata per tutti i lavoratori dello spettacolo questa pandemia, perché lo spettacolo è stato sicuramente relegato, e quando uno pensa a spettacolo deve pensare non soltanto ai registi e attori, ma tutto a quelle maestranze che fanno sì che lo spettacolo possa venire fuori a livello cinematografico, ma anche teatrale, musicale, eccetera, ma lo vediamo abbastanza bene. Per cui abbiamo voluto che il film fosse un film no profit,

storia vergognosa, Cuntu d'amore, di riconoscenza all'umile Italia. Un saluto e un ringraziamento alla regista Nella Condorelli. Un in bocca al lupo e a presto. Grazie. Con Joana Fresu de Azevedo, una delle ideatrici della piattaforma My Reload. Ben trovata. Ciao Federico, ben trovati a voi. Ci parli di questo progetto? My Reload è una piattaforma che nasce da un'idea di due festival, 16 Corto for l'International Film Festival e Shorts International Festival di Trieste, in collaborazione con My Movies. L'idea essenzialmente è stata quella: i due festival da diverso tempo collaborano insieme, abbiamo avuto attività congiunte e siamo entrambi soci di AFIC, quindi dell'Associazione dei Festival Italiani di Cinema. L'idea era quella di ridare vita a tutta una serie di cortometraggi che per un qualsivoglia motivo, spesso anche semplicemente la fretta di far finire il periodo di vita di un cortometraggio, erano stati in qualche modo dimenticati. In My Reload appunto abbiamo cortometraggi dimenticati, cortometraggi che magari hanno avuto una scarsa capacità distributiva ma sono meritevoli di essere visti e rivisti, prime esperienze dietro la macchina da presa, come ad esempio il caso di due corti che abbiamo in catalogo, Sensazioni d'amore di Adriano Pantaleo e Malamenti di Francesco Di Leva, due personaggi noti al grande pubblico per il loro essere attori sia di cinema che di teatro, ma che pochi sanno che sono stati anche registi di un corto. Le opere sono già passate per i festival che compongono la piattaforma? Non obbligatoriamente, chiaramente lo zoccolo duro dei primi selezionati per la piattaforma li abbiamo presi dalle nostre selezioni, ma uno degli aspetti interessanti è stato che una volta che abbiamo iniziato a parlare di questo progetto, molte case di distribuzione, molte case di produzione indipendenti ci hanno contattato direttamente per poter inserire in catalogo i loro corti, quindi ci sono anche corti che noi stessi non abbiamo visto, abbiamo scoperto per la prima volta grazie a My Reload. Avete comunque dei selezionatori e selezionatrici? Abbiamo il vantaggio di avere due festival a disposizione con tutte le loro professionalità in campo e chiaramente l'ultima parola ce l'hanno i direttori di My Reload, che altro non sono che i direttori artistici dei due festival, quindi Gianluca Castellini, Chiara Valenti Omero e Maurizio Di Rienzo, più tutto il resto dello staff congiunto 16 Corto e Shorts, che è in campo sulla gestione, il coordinamento, i rapporti con case di distribuzione, produzione, autore, tutto il comparto social. E permettimi una piccola nota da ricordare, che l'80% dello staff di My Reload in realtà è composto da professioniste donne nel campo della promozione cinematografica, e questo è un aspetto a cui teniamo molto. Quando è andata online e da quanti lavori è composto il catalogo al momento? La piattaforma è ufficialmente online dal 21 di aprile e attualmente sono in catalogo 60 cortometraggi italiani e internazionali. Tra questi, fino al 21 di maggio, ci sono anche tre dei nominati agli Oscar 2021. Però ti dico, il catalogo è in continuo aggiornamento. Abbiamo già un'altra ventina di titoli pronta a partire a fine maggio. Ci sono anche contenuti extra oltre che i cortometraggi o tipo interviste o speciali? Tutti i contenuti extra e le interviste speciali si trovano al momento sui nostri profili social, quindi basta cercare My Reload sia su Facebook che su Instagram e ci sono i focus sui cortometraggi che abbiamo in catalogo, le interviste con gli autori. A brevissimo altre interviste saranno presenti anche direttamente in piattaforma, come dicevi tu giustamente, come contenuto extra dei vari titoli. Come è strutturata la piattaforma? Sul classico modello My Movies, perché comunque appunto loro sono partner a tutti gli effetti e ovviamente tutta la parte tecnica è gestita direttamente da loro. Ed è molto semplice, si può fare una ricerca per sezione, quindi corti internazionali, corti nazionali o eventi, come ad esempio il caso degli Oscar, oppure anche una ricerca per titolo o per autore. All'interno della piattaforma sono disponibili tutte le schede dei film, quindi con le sinossi, con alcune informazioni sul regista, sui premi che hanno vinto, su dove sono stati in selezione. La cosa interessante è la formula che abbiamo scelto dell'abbonamento, che è particolarmente competitiva perché calcola che tutto il catalogo di My Reload è visibile con un abbonamento mensile di 3 euro o di 30 euro per un abbonamento annuale. La piattaforma My Reload online da mercoledì 21 aprile 2021, un saluto e un ringraziamento ad una delle ideatrici, Joana Fresu de Azevedo. Un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie Federico, a presto. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.